perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, oggi alla conduzione di Effetto Giorno, il nostro appuntamento con le notizie come sempre. Dunque ripartiamo da quelli che sono i titoli della giornata. Referendum, la corsa dei veleni verso il voto del 4 dicembre, scontro sul voto all'estero, la raccolta di firme per il Movimento 5 Stelle dopo Palermo, 4 gli indagati anche a Bologna. Smog in Europa, 500.000 di vittime in un anno ed è allarme meningite in Toscana, dove però è fuori pericolo il bambino di 8 anni ricoverato al Meyer. La pagina internazionale, Ucraina-Russia, 3 anni della guerra che non c'è. Kiev intanto annuncia la cattura di 2 soldati russi in Crimea. Infine lo sport, la Champions nel segno della Juventus. A Napoli intanto ferito un tifoso della Dinamo Kiev. Bene, mentre la nostra base corre regolare sotto di noi, ma eccola qua, la abbassiamo un po' e ripartiamo dunque dalle nostre notizie. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, in primo piano sempre la politica, naturalmente il referendum. Avete sentito che l'abbiamo definito una vera e propria corsa dei veleni, difficile in fondo definirla altrimenti. Il voto del 4 dicembre, ne parliamo regolarmente, sistematicamente, nel rispetto dei meccanismi appunto dell'equilibrio politico del sì e del no, ma indipendentemente da tutto questo rimane il fatto che nonostante le molte regole, quello che è molto difficile controllare, e d'altra parte non dovrebbe esserlo, è proprio la tensione che emerge. Ogni giorno c'è uno spunto, oggi forse l'elemento centrale del racconto è quello, lo scontro, intorno al voto all'estero. Ma sentiamo il servizio a cura di Vincenzo Miglietta. Dibattito sul referendum che ruota anche oggi attorno all'allarme lanciato dal fronte del no sulla regolarità del voto del 4 dicembre. Il comitato per il no punta il dito sul voto degli italiani all'estero, ipotizzando in caso di vittoria del sì il ricorso anche alla consulta. Il Movimento 5 Stelle allarga quindi i timori anche a quanto potrebbe accadere nei seggi italiani. Sento odore di brogli, dice allora Di Maio. Abbiamo visto più volte che ci sono stati e potrebbero esserci anche in questo caso. Abbiamo chiesto un osservatorio sulle modalità di voto. Altra polemica quella nata dalle dichiarazioni di Berlusconi. I vertici Mediaset, ha detto l'ex cavaliere, voteranno sì perché hanno paura di una possibile ritorsione di chi ha il potere. Berlusconi è un furbone, commenta il sindaco di Bergamo Gori, ex produttore televisivo anche di programmi del Biscione, che aggiunge: le sue televisioni fanno campagna per il sì perché è un voto per il cambiamento. Il presidente del Consiglio Renzi lega intanto il risultato referendario e l'Europa. Dal voto, dice, dipenderà il nostro cammino a Bruxelles. In chiusura le agenzie di rating, ad intervenire Standard & Poor's, che avverte: in caso di vittoria del no avremo turbolenze sui mercati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questa dunque è la nostra apertura e, come vi ho anticipato nei titoli, la questione delle firme, delle irregolarità presunte nella raccolta di firme a sostegno del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato di Palermo, ora c'è una questione che si apre a Bologna. Teresa Trillò. Dopo Palermo, Bologna, il Movimento 5 Stelle finisce sotto inchiesta anche nel capoluogo emiliano per presunte irregolarità nella raccolta firme in occasione delle regionali 2014. 4 gli indagati, 3 militanti e il vicepresidente del Consiglio Comunale Marco Piazza. L'inchiesta della Procura di Bologna nasce da un esposto di 2 ex militanti pentastellati. L'ipotesi dei magistrati è che le 4 persone abbiano violato la legge elettorale nella raccolta delle firme per le liste circoscrizionali dei candidati pentastellati. Piazza sarebbe chiamato in causa in qualità di certificatore. Nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Michela Guidi, fra le contestazioni c'è quella di aver autenticato firme non apposte in loro presenza, oppure in luogo diverso rispetto al requisito di territorialità, oppure in mancanza della qualità del pubblico ufficiale. Nella denuncia firmata dagli ex militanti si parla infatti anche di una raccolta firme ritenuta irregolare perché avvenuta al Circo Massimo a Roma, durante un raduno del movimento, quindi fuori dal territorio di competenza. Intanto il capogruppo pentastellato in Consiglio Comunale, Massimo Bugani, spezza una lancia in favore di Piazza. Su di lui, dice, metto la mano sul fuoco, forse è una trappolina per colpire me. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora un tema davvero di portata generale, di portata europea, perché parliamo di qualità dell'aria in Europa, che da una parte sta migliorando, dall'altra c'è come dire, una crescita da una parte della consapevolezza, ma anche della capacità di riconoscere quelle che sono le patologie, appunto legate invece ai problemi, che sono molti, nell'aria che respiriamo. Un rapporto oggi dall'Unione Europea, davvero alcuni dati sono impressionanti. Sentiamo il servizio di Cristina Carpinelli. 467.000 morti premature l'anno in Europa a causa dell'inquinamento atmosferico è la cifra stimata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente e pubblicata nel rapporto Qualità dell'Aria 2016. Un report che, se da un lato conferma sul fronte smog un lento ma continuo miglioramento, dall'altro ci dice che è il principale fattore ambientale di rischio per la salute umana, abbassando la qualità della vita. Contestualmente al rapporto europeo, l'Istat pubblica il dato sulla qualità della vita delle città italiane, tante ombre, qualche luce, come quello sulla crescita degli orti urbani, più 27,3%, che però non compensa la mancanza di controlli contro il rumore nelle città. Secondo l'Istat, infatti, sono 100 i capoluoghi che effettuano misurazioni del rumore, accertando superamenti dei limiti di legge nel 49,2% dei controlli. Città italiane dove in aumento l'uso di energia alternativa, si moltiplica il car sharing e le auto ibride, ma sono ancora poche le piste ciclabili. Passi da gigante anche sul fronte rifiuti, ma a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con grande tempismo, devo dire, poco fa il Parlamento europeo ha approvato il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato una direttiva che definisce i limiti più bassi ai principali inquinanti per abbassarli entro il 2030 la quantità nell'atmosfera sotto i livelli del 2015. Continuiamo a parlare di attualità, ma naturalmente in una chiave di salute, perché l'allarme che è stato innescato da una serie di fatti di cronaca in Toscana riguarda la meningite. Dunque, allarme meningite, con una buona notizia: il bambino, un ragazzino di 8 anni che è stato appunto preso in carico, in cura al Meyer di Firenze, uno degli istituti principali della Toscana e d'Italia, per questo tipo di patologie, sta meglio. Ma sentiamo la situazione nel servizio di Andrea Viali. Secondo i medici è fuori pericolo il bambino di 8 anni colpito da meningite C, ricoverato da ieri sera all'ospedale Meyer di Firenze. Sta rispondendo in modo positivo alle terapie e non è in pericolo di vita. Era stato vaccinato nel 2009 e questo, secondo i sanitari, ha reso il contagio meno grave. La ASL di competenza ha disposto la chiusura della scuola elementare di Colle Savetti, in provincia di Livorno, nella quale il bambino frequenta la terza classe. In giornata sono iniziate le operazioni di profilassi sugli alunni che erano stati in più stretto contatto con il piccolo. Il suo è il terzo caso di meningite in Toscana in pochi giorni, dopo quelli delle due donne morte a Livorno e a Firenze. Con loro salgono a 7 i decessi per meningite avvenuti quest'anno in Toscana, regione nella quale dal 2015 è presente un ceppo di meningococco C particolarmente aggressivo. Per debellarlo, esperti e ASL toscane insistono sull'importanza delle vaccinazioni, soprattutto fra i più giovani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa dunque la situazione, la buona notizia che viene accompagnata in queste ore dal rinnovato invito da parte dei sanitari a non mollare la presa sul tema delle vaccinazioni, perché c'è un dato preoccupante che riguarda il numero dei vaccinati complessivi. Pensate, in Italia il numero dei bambini vaccinati è sceso sotto la percentuale del 95% che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, considera il livello di sicurezza, il livello di guardia. La curva ha cominciato a scendere da qualche anno, l'andamento è preoccupante, siamo arrivati tra il 93 e il 94% per le 6 vaccinazioni contenute nell'esavalente, poco sopra l'85% per la MPR contro morbilla, rosolia e parotite. E adesso cambiamo tema, parliamo di evasione fiscale. Questa mattina un bilancio, ma anche un appello da parte del Ministro dell'Economia, va contro l'equità, l'inclusione sociale. Sentiamo i dettagli nel servizio di Alessandra Schepisi. 190 milioni di euro, il 12% del PIL, tanto vale il sommerso in Italia. Il ministro dell'economia Padoan lancia un allarme sull'evasione fiscale in occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico della Guardia di Finanza. L'evasione va contro l'equità e l'inclusione sociale, dice il ministro, aggiungendo che nonostante molti interventi, tanto resta ancora da fare nella lotta a chi bara con il fisco, che resta una priorità del governo. Ma intanto, dice Padoan, su famiglie e imprese graveranno nel 2017 meno tasse per 23,5 miliardi di euro. La riduzione della pressione fiscale è il caposaldo dell'azione di questo governo, ricorda anche il premier Renzi, non per fumo ideologico. In altri paesi, né io né Padoan saremmo arditi sostenitori della riduzione delle tasse, ma l'Italia ha una pressione fiscale insostenibile e la sua riduzione è il modo per attuare il principio dell'articolo 3 della Costituzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso vediamo alcune delle notizie della pagina internazionale. La prima che vi segnalo arriva dall'Europa nordorientale. Mosca ha infatti schierato missili antinave Bastion nella sua enclave baltica di Kaliningrad, enclave che confina coi paesi NATO di Polonia e Lituania. Lo riporta Interfax citando fonti informate. Il sistema missilistico si aggiunge così ai presenti S-400 e Iskander. La piccola enclave dunque completa di fatto un processo di fortificazione. Un aspetto che noi naturalmente teniamo d'occhio all'interno di quelle che sono le reciproche risposte tra NATO e Russia su questo fronte, su questa frontiera ritornata calda. E a proposito di frontiera ritornata calda, Euromaidan, un concetto, un termine che credo sia conosciuto, insomma, ci porta mentalmente verso l'Ucraina. Di fatto indica questo termine, Euromaidan appunto, e la serie di manifestazioni cominciate in Ucraina la notte del 21 novembre del 2013, all'indomani della sospensione da parte del governo di Kiev di un accordo di associazione denominato DCFTA, cioè tra l'Ucraina e l'Unione Europea. Bene, questo fu l'inizio di una crisi drammatica, la più drammatica degli ultimi anni, appunto ai confini dell'Unione e nell'Europa, e di questo torneremo a parlare tra non molto con alcuni ospiti. Altra notizia invece internazionale ci porta quasi inevitabilmente negli Stati Uniti, dove Donald Trump è sempre più deciso a scegliere Mitt Romney come segretario di Stato. Il punto con Mario Platero. Donald Trump ha chiesto a Mitt Romney di essere il suo segretario di Stato. La notizia non è stata confermata ufficialmente, ma fonti autorevoli che avevo anticipato ieri hanno confermato al Sole 24 Ore che il passo del presidente eletto è stato compiuto. A questo punto la palla è nel campo di Romney, che dovrà decidere entro pochi giorni se accettare o meno, e probabilmente avremo la conferma ufficiale in una direzione o nell'altra entro il fine settimana del Thanksgiving. Questa mossa di Trump tuttavia serve a muovere la sua amministrazione verso il centro, come del resto ha fatto il presidente ieri in una lunga chiacchierata con il New York Times, dove è apparso pragmatico e deciso a prendere le distanze dai gruppi dell'estrema destra. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Trump, che poco fa, batte un'agenzia, avrebbe scelto la governatrice del South Carolina, Nikki Haley, per la posizione di ambasciatore all'ONU. Così fonti vicino appunto a Donald Trump. E adesso nelle città italiane due storie ci portano a Milano e a Torino, due storie diverse. A Milano si parla di sicurezza e viene definita, almeno a grandi linee, la dislocazione dei militari attesi nei prossimi giorni. Servizio. La mappa sarà definita nei dettagli venerdì, ma a grandi linee già oggi è stato chiarito dove andranno i militari in più attesi a Milano. Queste tre zone sono la zona di Via Padova, la zona del Corvetto e la zona di San Siro. Circa la metà del contingente che verrà impiegato. È il prefetto Alessandro Marangoni, al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ad elencare le aree della città dove gireranno altre pattuglie miste, oltre a quelle già presenti in centro. Due militari con un carabiniere un poliziotto a scopo di prevenzione per rispondere a quell'esigenza di sicurezza invocata in queste aree più periferiche dopo l'accoltellamento di un domenicano in piazzale Loreto. 150 in totale saranno i militari in più attesi sotto al Duomo dopo la richiesta del sindaco Sala accolta dal governo nel vertice col ministro dell'Interno di sabato. Sono parte del contingente impegnato fino ad ora a sorvegliare sul Giubileo. Quanto resteranno sarà definito tra 3 mesi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso a Torino, stop a sosta selvaggia, raffiche di multa a ottobre, finisce la luna di miele tra Appendino e commercianti. Guerra a tutto campo alla mala sosta nella città di Torino. La sindaca Chiara Appendino aveva annunciato tolleranza zero contro la sosta in doppia fila sui parcheggi per disabili e sulle strisce pedonali in un videomessaggio postato il 9 novembre sulla sua pagina Facebook. La mia amministrazione non ha né oggi né in futuro alcuna intenzione di tollerarmi inciviltà ed illegalità stradale, fenomeno che non viene affrontato da tempo. Non abbiamo la bacchetta magica, ma dopo una riunione con il comandante dei vigili urbani abbiamo stabilito controlli molto più rigidi e continui, soprattutto contro la mala sosta. Dallo scorso fine settimana sono scesi in campo 80 vigili in più, in tutto un esercito di 300. A ottobre le multe erano già aumentate, 15.000 rispetto alle 10.000 dell'amministrazione precedente, e già si gestiscono multe per 80 milioni l'anno. Ma se la stretta è appoggiata dagli ambientalisti e allarme tra i commercianti, soprattutto perché, avverte la presidente Luisa Coppa, le quattro frecce non devono diventare una scusa, ma è necessario anche un piano parcheggi per chi non può andare a piedi o in bicicletta. A prescindere dalle aree pedonalizzate, ci sono delle aree dove invece è indispensabile, altrimenti non sopravvive il commercio. Va benissimo vietare il parcheggio in seconda fila, però dove non c'è parcheggio non c'è negozio. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Bene, allora, visto che stiamo parlando di automobili, da una parte il parcheggio, dall'altra la mobilità, sentiamo insieme le notizie per chi è in viaggio e poi torneremo invece con Dario Ricci per un aggiornamento sulla pagina sportiva. Tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto giorno. 13:18 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli, da Laura Faggin, da Matteo Remelli in assistenza oggi, da Filippo Reggi negli studi milanesi, insomma da tutti noi, naturalmente dalla redazione di Radio 24 che in queste ore vi aggiornano su quelli che sono appunto le notizie a tutto spettro, a tutto campo. E visto che parliamo di campi, Dario Ricci in attesa per aggiornarci un po' su quanto accaduto ieri sera, e molti l'hanno visto, e su quello che invece si prepara per la giornata. Dario. Dario Ricci non è con noi. Eccoci qua, caro Gigi. Beh, ahimè, il primo aggiornamento è di cronaca nera, però, anche se avrei voluto cominciare dalla cronaca sportiva, perché il numero dei feriti a Napoli sì, è salito a 2, se la media è questa, uno ogni quarto d'ora. Certo. Beh, speriamo di no. No. Comunque, 2 tifosi ucraini della Dinamo Kiev, che questa sera, lo ricordiamo, sfida al San Paolo alle 20:45 i partenopei per una gara chiave per il cammino in Champions degli azzurri di Sarri, sono stati feriti. Il primo agguato è avvenuto in una delle vie centrali della città, Corso Umberto, a poche centinaia, pensa Gigi, di metri dalla sede della questura napoletana. Un tifoso ucraino di 50 anni, con tanto di sciarpa del suo club al collo, è stato accerchiato da un gruppetto di delinquenti che prima lo hanno offeso e poi l'hanno accoltellato con 3 fendenti alla gamba sinistra. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare. Questo è il primo agguato. Poco dopo, nella zona dell'università, sempre in Corso Umberto, il secondo, con una dinamica molto simile, il ragazzo che è stato prima accerchiato e poi colpito con un coltello, rimanendo ferito anche in questo caso fortunatamente in maniera non grave. Ecco, quindi questa è la cronaca nera. Per quanto riguarda invece la cronaca sportiva, detto della sfida importante di questa sera dei partenopei, va sottolineato il successo della Juventus a Siviglia, una Juventus che non convince ma vince finora, tanto in campionato, dove ha più 7 sulle rivali, quanto in Champions. In 3-1 di ieri sera fa intravedere intanto la qualificazione certa agli ottavi, ma anche il primo posto nel girone, che, come ben sanno i bianconeri, che l'anno scorso proprio a Siviglia quel primo posto lo persero, è comunque sicuramente posizione più vantaggiosa in vista del sorteggio degli ottavi. Anche lì, all'atere della partita, ma ne abbiamo lungamente parlato, il ferimento del tifoso juventino alla vigilia del calcio d'inizio. Insomma, a proposito di vaccini, un vaccino contro la violenza in questo calcio davvero ancora non si trova, Gigi. Grazie Dario Ricci, grazie dunque la pagina sportiva. Adesso voltiamo decisamente pagina, partiamo da un suono, da un rumore che ci porta in Ucraina. Questi sono i rumori di una guerra che non c'è, questi sono i rumori di un conflitto in Europa che è sparito, come si dice, dai nostri radar o dai nostri orizzonti, o comunque in realtà non è così, ci sono dei luoghi in cui ci si può informare intorno a questi eventi, eventi che riguardano l'Ucraina e che riguardano come tale anche davvero centinaia di migliaia di donne che vivono in questo nostro paese e che a loro volta racconteranno, se vi capita di parlare con loro, la divisione, anche lo strazio di una guerra civile. Oggi sono tre anni circa, perché in realtà sono caduti due giorni fa, ma insomma per quel che valgono i compleanni in questi termini. Tre anni dal momento in cui la decisione del governo di Kiev di rinunciare a un accordo che stava portando avanti con l'Unione Europea ha innescato quello che abbiamo imparato a conoscere come Maidan o Euromaidan. Poi ci sarebbero state proteste, la piazza che progressivamente si affolla di persone, di gente che protesta e poi gli scontri. Insomma, questo inverno di tre anni fa che poi ha portato invece a Oriente, nell'estremo Oriente ucraino, dove appunto il paese confina con la Russia, nelle regioni del Don, appunto il Donbass, letteralmente è esattamente come lo immaginate il significato, e al conflitto, la grande attenzione dei media, poi una sorta di silenzio. Con noi oggi Andrea Ceresini, che ringrazio. Andrea, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Andrea Ceresini, vi segnalo subito www.occhidellaguerra.it, tanto per orientarvi. Sul sito troverete tra l'altro questi suoni, questi rumori, ho detto che avete intuito fossero dei bombardamenti, che lui ha registrato con un suo compagno appunto di lavoro, ma che di fatto è la continuazione del libro che hai scritto, Ucraina, la guerra che non c'è. Insomma, in quella guerra che non c'è, tu non molti mesi fa eri sotto le bombe. Sì, siamo stati là un mese, io, Lorenzo Giroffi e Alfredo Bosco, per gli occhi della guerra, cercando appunto di portare in Italia le notizie di questo conflitto di cui si è smesso di parlare ormai da vari mesi, tranne rare eccezioni, da vari anni possiamo dire, e però che continua insomma con intensità e fa vittime insomma tutte le settimane. Ecco, primo punto, continua davvero e con che intensità? Magari siete stati fortunati a trovarvi nel bunker sbagliato al momento sbagliato, oppure no? Beh, fortunati o sfortunati? No, fortunati insomma, a essere dentro, ma voglio dire, quanto è frequente quello che voi avete registrato con i vostri microfoni e ma video? È molto frequente, io ho visto anche recentemente insomma le statistiche, che poi il problema lì è che non c'è una statistica ufficiale, nel senso che ognuno poi dice le sue statistiche sia da una parte che dall'altra. Ho visto ad esempio che l'ufficio stampa della Repubblica di Donetsk dice che nelle ultime 24 ore sono caduti 500 colpi di artiglieria sulla Repubblica di Donetsk, quindi essendo comunque lì spesso insomma i bombardamenti sono un effetto ping pong, cioè un colpo di qua, un colpo di là, possiamo ipotizzare 1000 colpi di cannone solo tra Donetsk e l'Ucraina, poi c'è Lugansk che è l'altro capoluogo separatista dove c'è una contabilità a parte. Quindi insomma, diciamo che è abbastanza intenso. E poi c'è naturalmente il fronte ucraino. Voi perché avete scelto, diciamo, di osservare la parte che in questo lavoro, in questo reportage, emerge la parte dei separatisti? Dall'altra parte, che cosa c'è? Noi siamo stati in passato anche dalla parte degli ucraini, soprattutto durante i primi due viaggi che abbiamo fatto. Quella dei separatisti ci sembrava più difficile, più complessa da raggiungere, quindi anche più interessante dal punto di vista giornalistico, quindi siamo concentrati su quel fronte lì, cercando appunto di raccontare ciò che qua difficilmente arriva. Perché difficilmente arriva? Beh, perché di questa guerra non si parla più, si è smesso completamente di parlare. Questione ragioni... di priorità, o ci sono a tuo avviso delle ragioni magari che... No, beh, penso che il problema sia un problema del giornalismo italiano e occidentale in generale, insomma, che tende a dare priorità ad argomenti che magari fanno più notizia, ma sono insomma meno pesanti da questo ecco, punto di vista. Non so se sei d'accordo, ma credo una delle ragioni per un po' questa distanza sia anche la complessità. Qui è difficile scegliere quale campione, diciamo, appunto, scegliere da che parte stare. Perché io ho parlato di guerra civile, una definizione che condividi? No. Sì e no, cioè effettivamente è tutto molto complicato. Diciamo che è in parte una guerra civile, nel senso che comunque è una guerra tra ucraini dell'est e dell'ovest, nel quale però l'ingerenza russa, ovviamente non dichiarata, è sempre molto presente. Mascherata, è evidente, palese, e insomma negarla sarebbe da... Certo. Impossibile, insomma. Quindi è una guerra civile inscatolata in una guerra di interessi tra est e ovest, o è solo appunto la presenza russa che a tuo avviso sta destabilizzando quella parte del mondo? A mio avviso la causa scatenante sono gli interessi est-ovest delle due potenze, dei due blocchi di potenze, diciamo, i quali hanno in modo anche molto forzato scatenato una guerra, diciamo, tra, culturale, tra due popoli che in realtà sono lo stesso popolo, parlano la stessa lingua alla fine, che fino a qualche anno fa non avevano nessuna ragione per scontrarsi in questo modo. Insomma, quindi, secondo me, prego Andrea. No, secondo... in fondo, diciamo, la cosa scatenante certamente non è quella della guerra civile, ma è quella dello scontro di potenze, che artificiosamente ha scatenato questa rivalità, diciamo, culturale, linguistica, che non è mai esistita. Che però, insomma, e che la sta alimentando ora, e che come appunto, che come Andrea Ceresini, che ricordo, potete andare in www.occhiedellaguerra.it perché c'è molto materiale ed è molto interessante, e lo ringrazio e gli auguro naturalmente buon lavoro. Come avete sentito, questo conflitto non solo non è risolto, ma per qualche verso sta anche riprendendo in maniera preoccupante dopo vari tentativi. Avete sentito il punto di vista del reporter? Abbiamo con noi anche Aldo Ferrari, che insegna storia della Russia e storia del Caucaso e dell'Asia centrale a Ca' Foscari, a Venezia. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Ecco, questo, lei condivide il punto di vista per cui di fatto l'Ucraina si trova, come dire, come è accaduto a altri paesi in passato, in una zona di collisione di interessi est-ovest? Direi senz'altro di sì, non ci sarebbero ragioni così reali e profonde per mettere a contrasto popolazioni che per secoli hanno avuto lingue o varianti linguistiche, religione molto molto vicine. Purtroppo l'Ucraina è diventato il campo di battaglia tra due opposti progetti geopolitici, uno europeo occidentale e statunitense, NATO, all'altro russo, e in questa maniera un paese che già aveva dei problemi interni economici, sociali, ma anche di identità culturale e storica, si è lacerato e sono emersi questi conflitti estremamente tristi che, proprio per la complessità poi geopolitica generale, faticano ad essere risolti. Ecco, dottor Ferrari, secondo lei dove si troverà un punto d'incontro? Perché dopo una lunga agonia bisognerà trovare in quale organizzazione, la cessione della Crimea, forse definitiva, il riconoscimento della Crimea alla Russia, un'autonomia per l'est ucraino, dove? Vede, progetti a tavolino se ne possono fare tanti, diciamo che se il tempo fosse quello dell'Ottocento o del Settecento, quando i conflitti venivano risolti in base alla Realpolitik, tutto sarebbe molto più semplice. In questo contesto la Crimea rimarrebbe alla Russia, presumibilmente un pezzo di Ucraina orientale passerebbe alla Russia, ma la situazione è completamente diversa. Esistono relazioni internazionali, esistono organizzazioni, esiste un diritto internazionale che a volte opera e viene fatto operare, altre volte assai di meno. Purtroppo la soluzione è rimandata dal fatto che le diverse strutture internazionali, diversi agenti esterni non sono affatto d'accordo tra di loro su come porre fine a questo conflitto, e al momento non si vedono soluzioni immediate di cambiamento e di avvicinamento al termine di questo conflitto, purtroppo. Tre anni sono dunque passati, io ringrazio Aldo Ferrari per questo suo contributo. Euromaidan, come dire, è una triste celebrazione di quella che era sicuramente per molti cittadini dell'Ucraina un'ambizione di libertà, di avvicinamento alla nostra qualità della vita, io direi essenzialmente a lasciarsi alle spalle anche un passato di difficoltà, un passato, un presente, in quel caso l'aspettativa era un passato di difficoltà economiche e sicuramente di questa presenza così ingombrante della Russia, e naturalmente sarà un triste anniversario. Grazie dunque ai nostri ospiti. Adesso è tempo di fare il punto della borsa, poi naturalmente continuiamo con altri temi. Effetto giorno. 13.35, come anticipato il tempo degli aggiornamenti di borsa con Isabella Tasso. Buongiorno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Abbiamo parecchie notizie fresche davvero degli ultimi minuti. La prima: vanno verso l'autosospensione gran parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle che risultano indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle firme false di Palermo, su quelle irregolari di Bologna. Si apprende da fonti vicini ai vertici del Movimento, che sottolineano come, per quanto riguarda il caso bolognese, il vicepresidente del Consiglio Comunale Marco Piazza abbia già dato la sua disponibilità ad autosospendersi. Invece da Londra, Thomas Mayer, 53enne simpatizzante dell'ultradestra inglese, è stato dichiarato colpevole dalla giuria popolare radunata di fronte alla corte londinese di Old Bailey dell'uccisione della deputata laburista britannica Jo Cox. Accadeva il 16 giugno scorso, alla vigilia del voto per la Brexit. Il verdetto è arrivato in questi minuti. Tra un istante avremo anche degli aggiornamenti sulla situazione meteo. Prima però dobbiamo fare un punto con Alessandra Schepisi. A volte gli zeri ci tradiscono. Abbiamo parlato nel primo blocco di numeri, 190 era certo, milioni, miliardi. Che succede, Alessandra? Sì, ci scusiamo per l'errore di lettura, 190 miliardi e non 190 milioni naturalmente, e il valore del sommerso in Italia, equivalente al 12% del PIL, era il dato che aveva fornito il ministro dell'economia Padoan in occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico della Guardia di Finanza. Dunque 190 miliardi e non 190 milioni. Grazie ad Alessandra Schepisi per la precisazione. Adesso, se la regia me lo conferma, dovrebbe essere con noi Federico Grasso del Centro Funzionale dell'ARPAL. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori. Direi bentornato, visto che era con noi anche ieri, ma appunto per la situazione. Ci ricorda dov'è, dottor Grasso? Io sono qua alla sala operativa della Regione Liguria. E abbiamo appena aggiornato lo stato di allerta. Infatti, che cambierà in regione. In questo momento siamo sostanzialmente in una fase di tregua, continua qualche debole precipitazione sempre sul centro ponente regionale, che è l'area del nostro territorio dove ci aspettiamo che la perturbazione vada a impattare maggiormente nelle prossime ore. Ecco, quindi abbiamo visto per la sera un ritorno, come dire, all'attenzione alta. Esattamente, allerta rossa, che è la massima allerta sull'estremo ponente a partire dalle 21 di questa sera, allerta che si andrà estendendo anche sulla parte centrale della regione, con le città di Savona e Genova interessate a partire da domani mattina alle 6. Questo perché c'è la perturbazione che interesserà prevalentemente il ponente del regionale, ma al confine tra Genova e Savona abbiamo già avuto nelle scorse 30 ore cumulate fino a 600 mm di pioggia, un valore che veramente richiama le grandi alluvioni del passato. Fortunatamente sono cadute in un territorio invece debolmente antropizzato e questa volta non hanno prodotto particolari effetti al suolo. E questo ovviamente fa la differenza. Dottor Grasso, io la ringrazio di essere con noi, credo che torneremo a sentirci, perché naturalmente per noi è importante sentire i vostri aggiornamenti. Intanto davvero grazie mille, e in questo ultimo minuto che ci separa al nuovo aggiornamento per la viabilità invece andiamo a Strasburgo. Abbiamo Marta Cagnola che deve fare un annuncio da par suo, un premio importante naturalmente per il cinema. Marta. Sì, è Tony Erdmann della tedesca Maren Ade, il vincitore del premio Lux, il premio miglior cinema europeo, l'unico premio che ha una giuria fatta da parlamentari. La premiazione è avvenuta a mezzogiorno proprio qui nel Parlamento europeo. Per una volta nessuno ha da obiettare, ha scherzato il presidente Martin Schulz. Il film è una commedia dolce e amara su una donna stacanovista, le prese con un padre che vuole metterle sotto sopra la vita. Ha già vinto il premio Filmpreis a Cannes, a San Sebastiano, e quotatissimo per la nomination a miglior film straniero per la Germania. La regista Maren Ade, molto emozionata e contenta del Lux, perché dice è felice di essere una regista europea. Sentiamola. Yeah, it's a very big honor to us, to all of us who worked on that film, and è un grande onore per tutti noi che abbiamo lavorato a questo film, perché siamo stati votati da persone di tanti paesi e culture. Quando fai un film non sai se incontrerai gusti di persone e paesi diversi. E da Strasburgo è tutto. Grazie a Marta Cagnola, la risentiremo, dedicherà a Marta degli spazi più approfonditi appunto su questo premio, che è un premio europeo ma anche un premio che punta sempre a degli aspetti molto politici dell'attualità contemporanea. Grazie dunque e a risentirci negli approfondimenti. Adesso è tempo degli aggiornamenti per Chi è in viaggio.